Smart City, la città intelligente. È la notizia che non fa notizia. Pochissimi media ne parlano, ma da circa un anno circolano voci, si tengono dimostrazioni pubbliche più o meno convincenti, emergono ricerche in piena regola condotte per anni nel silenzio da enti scientifici non proprio sconosciuti, come per esempio la NASA. Buonasera da Maurizio Melis, parliamo della fusione fredda, il santo graal dell'energia, per alcuni scienziati anche altrettanto mitico, per altri decisamente più a portata di mano. Questa volta la notizia arriva dal Massachusetts Institute of Technology, proprio il centro di ricerca di Boston, famoso in tutto il mondo, che poco più di 20 anni fa diede il colpo di grazia alla fusione fredda, dichiarando di aver tentato in tutti i modi di replicarla ma senza successo. L'allora capo ufficio stampa recentemente ha dichiarato che alcuni dei risultati ottenuti a quel tempo però sparirono. È difficile qui non ricordare come il MIT fosse proprio allora il tempio della ricerca sulla fusione calda. La voce che oggi esce dall'MIT è invece quella di Peter Hagelstein, professore associato dell'MIT, che ai microfoni di Radio 24 ha raccontato tutta un'altra storia. Sentite. L'esperimento è stato messo a punto da Mitchell Schwartz, che è uno studioso della fusione fredda ed è titolare di una società che si chiama Jet Energy. La dimostrazione si è tenuta nei laboratori dell'MIT e, dal mio punto di vista, l'esperimento è rivoluzionario. Ciò che sappiamo è che il dispositivo, che si chiama NANOR, è basato su un nanomateriale, una nanopolvere di palladio e ossido di zirconio, e forse anche di qualcos'altro, che viene caricata con deuterio, ovvero idrogeno pesante. Per il resto, quello che posso dire è che l'apparato che Schwartz ha portato all'MIT era sigillato, dato che si tratta comunque di una tecnologia proprietaria, ed era dotato di 2 fili elettrici. Inoltre, aveva un sensore interno per la misurazione della temperatura. All'inizio Schwartz ci ha mostrato la temperatura che si poteva raggiungere con una semplice resistenza elettrica. Poi ha messo in funzione il dispositivo e l'incremento di temperatura è stato oltre 10 volte più elevato di quello ottenuto solo con la resistenza. La dimostrazione nei laboratori del MIT si è tenuta a cavallo tra gennaio e febbraio. L'apparato è stato fatto funzionare per 23 giorni e secondo Hagelstein in questo periodo è rimasto acceso più o meno il 40% del tempo. Il professore ha anche precisato che, cito testualmente, l'energia prodotta dal dispositivo eccedeva la scala chimica in meno di un'ora. Che cosa vuol dire? Che dopo meno di un'ora dall'accensione, l'energia prodotta dall'apparato risultava superiore a quella che sarebbe stato in grado di produrre un qualunque apparato delle stesse dimensioni alimentato da una fonte di energia chimica, inclusa la più potente. Hagelstein ha anche escluso che possa esserci una frode dietro al congegno. Mitchell Schwartz è in questo campo di studi da più di 20 anni. Ha scritto e pubblicato numerosi articoli scientifici sulla fusione fredda e tenuto altre dimostrazioni in passato qui all'MIT. Non credo ci sia alcuna frode. Credo anzi che l'esperimento sia stato condotto piuttosto bene. Insomma, non si può dire che ci sia stata una vigilanza attiva particolarmente forte da parte del personale dell'MIT durante questa dimostrazione. Tuttavia, Hagelstein è convinto che siamo di fronte a un dispositivo che produce energia con un guadagno 10 a partire da reazioni nucleari a bassa energia o fusione fredda, che dir si voglia. Ma siamo di fronte ad un dispositivo commerciale? Sicuramente l'obiettivo di Mitchell è questo. So che al momento sta cercando fondi presso investitori e venture capital. Tuttavia, mi pare che ci siano alcuni aspetti problematici al momento. Anzitutto, per un'applicazione pratica, è necessario che il dispositivo possa funzionare a temperature più elevate di quelle raggiunte nel corso dell'esperimento. E anche se mi aspetto che a temperature più alte il sistema funzioni meglio, per esserne sicuri bisognerà fare degli esperimenti. Inoltre, il dispositivo dimostrativo ha una potenza ridottissima, solo un decimo di watt. Ma anche la quantità di nanopolveri che è stata utilizzata è davvero minima. D'altronde, avere a che fare con potenze così piccole rende più semplice eseguire gli esperimenti. E poi dobbiamo pensare che il fatto di poter realizzare dispositivi piccoli è un vantaggio, non uno svantaggio. Mentre andava in scena l'esperimento, all'MIT si è tenuto anche un corso di una settimana rivolto agli studenti sulla teoria che sta dietro a questo fenomeno. Teoria che Hagelstein ha sviluppato in 20 anni di lavoro. L'obiezione più frequente, infatti, soprattutto da parte dei fautori della fusione calda, è che nelle condizioni presenti all'interno dell'apparato la fusione nucleare è impossibile. Decine o centinaia di gradi contro le decine o centinaia di milioni di gradi necessari per la fusione calda, quella che avviene nel nucleo delle stelle che si sta tentando di riprodurre da anni con esperimenti miliardari come ITER. In queste condizioni di temperatura estremamente elevata, insomma, i nuclei di idrogeno che sono lanciati a folle velocità riescono a scontrarsi tra loro nonostante si respingano vicendevolmente, ed ecco che avviene la fusione. Com'è possibile che lo stesso fenomeno avvenga a temperature un milione di volte più basse? Ecco come risponde Hagelstein. Vorrei subito precisare che sono d'accordo con i fisici che affermano che la fusione nucleare, o meglio la fusione nucleare incoerente, come quella che avviene all'interno delle stelle, è impossibile a temperatura ambiente. Infatti io ritengo che il processo fisico alla base della fusione fredda sia completamente diverso da quello che avviene nella fusione calda. Ciò che accade nel modello teorico che ho sviluppato negli anni è che si mette in moto un meccanismo che permette di suddividere i grandi quanti di energia necessari a innescare la fusione nucleare in tantissimi quanti più piccoli. Qualcosa di simile avviene in certi esperimenti con laser, in cui si vede come alcuni particolari cristalli sono in grado di assorbire due impulsi di luce rossa, trasformandoli in un unico impulso di luce verde. Ma questo è solo il caso più semplice. Sono stati fatti esperimenti in cui decine, persino migliaia di impulsi laser si sono sommati in un unico impulso più potente. Ebbene, se invece di migliaia di quanti parliamo di milioni di quanti, ecco che abbiamo un meccanismo in grado di spiegare come funziona la fusione fredda. Insomma, tanti atomi di idrogeno pesante intrappolati nel reticolo cristallino di un metallo come il palladio, muovendosi come fossero un tutt'uno, riescono ad attivare la fusione nucleare, così come, insomma, una folla può facilmente sfondare cancelli di uno stadio, mentre una singola persona non potrebbe mai farcela. È un po' questa l'idea di fondo, ed è un'idea che nasce da una teoria proposta per la prima volta da Giuliano Preparata negli anni 90, uno dei fisici più geniali del dopoguerra, poi scomparso. Per il momento noi però ci fermiamo qui. Domani la seconda parte dell'intervista con Hagelstein. A domani!